9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, sono 4 anni e 2 giorni per la precisione, 4 anni e 3 giorni, ancora meglio, che Gilad Shalit, un giovane israeliano in divisa che serviva al suo paese, e nelle mani di Hamas. Era un caporale dell'esercito israeliano, nel frattempo è stato promosso a sergente. In questi 4 anni i suoi familiari hanno avuto 2 anni fa una prova della sua esistenza in vita con delle immagini, e hanno ricevuto in questi 4 anni 2 lettere che alla riprova della grafia sono sicuramente attribuibili a Gilad Shalit. E dopo 4 anni e 2 giorni tenteremo oggi di capire come e perché in Israele e nel mondo, ma innanzitutto in Israele, la richiesta di liberazione, quindi la richiesta di trattative tra lo Stato di Israele e Hamas, stia prendendo forza maggiore che in passato. Non è la prima volta che israeliani in divisa rimangono prigionieri per anni dei nemici di Israele. Si ricorda per esempio negli anni la vicenda di Ron Arad. Ron Arad era un tenente colonnello dell'aeronautica israeliana che nella metà degli anni '80 cade prigioniero in Libano di Hezbollah, e di Ron Arad non si è poi più saputo mai nulla. Non si sa neanche quando è morto, se 3 anni dopo, 4 anni dopo la sua prigionia, come alcune fonti di Hezbollah dissero molti anni dopo, attribuendo un tentativo di fuga, oppure se sia morto di stente addirittura 10 o 12 anni dopo la sua cattura. E non se ne sanno, non se ne sono avuti poi neanche poi resti mortali indietro, né si sa dove è sepolto. Ma per il Gilad Shalit, la forti dell'esperienza del tenente colonnello Ron Arad, questa volta in Israele il movimento pubblico e il movimento internazionale a sostegno della sua liberazione, di un esito favorevole della sua trattativa, si sta mobilitando con forza. In questi giorni in Israele, da 2 giorni, a partire dal 4° anniversario della sua cattura, è in atto una marcia a cui partecipano più di 10.000 cittadini israeliani. In testa alla marcia ci sono i familiari di Gilad Shalit, che ripetono incessantemente il suo nome Gilad, e questa marcia dalla casa della famiglia Shalit, che è in Alta Galilea, è alla volta di Gerusalemme, per sottolineare ancora una volta che il governo Netanyahu si deve impegnare. Però qual è il termine di questa trattativa? Ecco, i termini di questa trattativa che utilizziamo incidentalmente, ma per ricordare a tutti la simmetria che si vive nel rapporto tra Israele e chi lo contrasta armi alla mano, secondo me illustrano bene, con qualche tocco di paradossale lunarità, la condizione che si vive in Israele. Perché la trattativa che è in corso da molto tempo, riservatamente, tra i rappresentanti di Hamas e quelli dei diversi governi di Israele che si sono succeduti nel tentativo di sbloccare la situazione, riguarda una proporzione quasi biblica di 1 a 1000. 1 a 1000. E questa proporzione, cioè la vita di Gilad Shalit in cambio di 1000 detenuti attualmente nelle carceri israeliane per reati o per accuse prima della formalizzazione dei reati che li ricollegano a organizzazione della resistenza armata contro Israele, ebbene questa proporzione di 1 a 1000 non è considerata ancora allo stato attuale da Hamas come bastevole, sufficiente, adeguata a riequilibrare ciò che Hamas chiede in cambio per restituire la vita di un ragazzo di 24 anni. Riservatamente la trattativa ha individuato diverse fattispecie, per così dire, con le quali completare questa lista di 1000. Già anni fa In cambio di una prova per l'esistenza in vita si procedette alla liberazione. In quel caso erano detenute, cioè di sesso femminile, e che erano ancora in attesa di formalizzazioni dei capi di imputazione, quindi c'è una specie di riscatto a rate, per così dire. In questo caso la trattativa era nata sul fatto che tra i mille Hamas chiede esplicitamente che vi siano alcune decine di persone che sono i responsabili dei più efferati attentati contro Israele. Quindi l'indicazione è quella di avere in cambio esattamente coloro che hanno fatto più vittime israeliane e non solo israeliane. È chiaro che quando si tratta di lotta armata, pretendere di risolvere questioni come queste in nome della giustizia e dell'umanità fa rischiare di apparire semplicemente cittadini di un'altra galassia. Tuttavia, vi invito a riflettere su questa vicenda. Dopo quello che è accaduto alla flottiglia di Gaza, Marmara, eccetera, eccetera, vedo già i messaggi da parte di chi è in ascolto che dicono che ancora una volta sono unilateralmente pro-Israele. Però quello che devo chiedervi io è possibile mai che anche dal punto di vista umanitario, quando si tratta semplicemente di considerare il diritto alla vita, secondo voi la proporzione adeguata non è neanche quella di 1000 a 1 rispetto a un cittadino israeliano? E che cosa vi dice questo tipo di sproporzione? Forse che esiste, come nei confronti di Sodoma e Gomorra, una giustizia asimmetrica per la quale è giusto che Israele paghi più di 1000 volte quello che i suoi nemici o avversari considerano che abbia inflitto agli altri. Non lo so. Io so solo che intorno alla mobilitazione di Gilad Shalit vive come uno degli ennesimi paradossi della lunga storia di Israele e la lunga difficoltà di comporre una frontiera compatta che riguarda questioni come l'umanità, il diritto all'esistenza in vita, nella sicurezza, nei propri confini, evitando attacchi armati. Dall'altra parte c'è un confine molto mobile che di fronte ai torti della storia giustifica il sangue, molto sangue, e giustifica l'asimmetria e l'unilateralità. Ci faremo raccontare da testimoni e da colleghi in Israele che cosa sta avvenendo lì. Io ricordo che la scorsa settimana la manifestazione più recente e più riuscita in Italia è stata quella che si è tenuta a Roma, e c'erano 4.000 persone presenti, diversi politici che si sono succeduti al microfono, e un'altra prossimamente ci sarà a metà luglio ancora a Roma, collegandosi anche con Bibi Netanyahu. Netanyahu, e concludo la mia troppo lunga introduzione, proprio in questi 2 giorni sta rispondendo agli israeliani che sono mobilitati per chiedere la liberazione di Gilad Shalit, dicendo: come Presidente del Consiglio io ho un obbligo di dirvi che non posso procedere nella trattativa se l'obiettivo è quello di liberare Gilad Shalit ad ogni costo. Israele non deve essere pronta a pagare ogni costo. Se ci chiedono troppo, sia pur vivendo noi la tradizione di un paese che non lascia nessuno dei suoi nelle mani degli avversari, pur tuttavia il mio obbligo come Premier è quello di difendere la sicurezza di Israele prima della vita di un uomo in divisa che è nelle mani dei nostri nemici. E quindi c'è un dibattito che ferve molto forte. Sentiamo testimoni come ce lo possono raccontare. Innanzitutto cominciamo con Yossi Bar, che è corrispondente del Marib, della Radio Pubblica di Israele in Italia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci puoi aggiornare su come questo movimento nasce, che tipo di dibattito, soprattutto politico, e nei diversi movimenti in Israele suscita, se la posizione del governo gode di consenso popolare o se invece la liberazione di Gilad Shalit diventa anche un termometro, per così dire, poi di un dibattito interno in cui il Premier spesso finisce non per essere proprio un catalizzatore di consensi? Sì, io ho sentito attentamente quello che tu hai detto all'inizio, però mi preme di dire una cosa prima del discorso, che semplicemente la faccenda del Gilad Shalit è una prova dell'impotenza del mondo occidentale democratico a riuscire a risolvere e di fare pressioni sui paesi e sulle organizzazioni che se ne fregano di tutti i diritti democratici e fanno quello che gli pare tipo il rapimento del Gilad Shalit, in cui la Croce Rossa non è stata ammessa di visitarlo, di vedere ancora se è in vita o non è in vita. Il mondo si mette tutto d'accordo per fare pressioni su Israele, ci sono manifestazioni ed vediamo che dopo un po' di tempo Israele è addirittura sotto la pressione pesante del mondo e ha abbassato la guardia su Gaza, sta rallentando il fermo delle entrate di vari beni comuni per Gaza e sta pensando addirittura di trasformare Gaza in un'entità libera in cui potrebbe avere accesso delle organizzazioni internazionali e di aumentare la qualità della vita a Gaza, per cui questi cittadini che sono in mano a un governo dittatoriale di Hamas vivranno un po' meglio. Invece la stessa pressione non vediamo nel mondo queste manifestazioni grandissime contro questo regime dittatoriale in cui tiene in mano un povero soldato che è stato rapito e sta da 4 anni in isolamento e senza nessun diritto di essere visitato, di ricevere un segnale, un pacco dai suoi genitori o qualsiasi contatto con i suoi amici, con i suoi parenti, e sta lì e il mondo è praticamente impotente, non può fare niente, cioè Hamas fa qualsiasi cosa che gli va. E non si riesce a capire perché il mondo sta fermo e non fa nessuna, perché non ci sono pressioni, perché non ci sono manifestazioni oceaniche in tutto il mondo per un rapimento che non ha nessun senso, che poi ovviamente c'è Hamas può chiedere anche 10.000 di liberare delle richieste assurde in cui ovviamente il governo israeliano ha delle difficoltà, sì, vorrebbe liberarlo, però ci sono fra questa lista delle richieste di circa di centinaia di terroristi, ci sono dei terroristi che hanno proprio il sangue sulle loro mani, che hanno addirittura ammazzato della gente, e il governo ha difficoltà di liberare questi terroristi, che sono addirittura segnalati, cioè una parte della gente di Israele si chiede ma perché allora i miei cari che sono stati assassinati da questi terroristi sono meno importanti di Gilad Shalit, come mai dobbiamo liberare gli assassini che stanno in carcere? Scontano in Israele, come lo sai benissimo, come sanno anche gli ascoltatori, non c'è la pena di morte, stanno in carcere, non penso che vengono torturate o stanno in condizioni così terribili, sono in carcere. Io non lo so come sta Gilad Shalit, nessuno non sa in quale condizioni, nessuno non sa se è ferito, se riceve il minimo necessario di un prigioniero che è stato rapito, nessuno non sa niente del Gilad Shalit. Invece nelle carceri israeliane io penso che la Croce Rossa vengono visitati i prigionieri che sono i terroristi che sono nelle carceri israeliane, non esiste una, non so, è una lotta in pari fra una organizzazione terroristica in cui non se ne importa niente delle regole internazionali e uno Stato che non è una democrazia ovviamente completa, però che sta sotto le leggi internazionali ed è accetta la visita della Croce Rossa per vedere questi detenuti palestinesi che sono in carcere. Perciò è difficile di fare questo paragone e ovviamente la maggioranza del popolo vorrebbe vedere Gilad libero e ci sono tanti che dicono a qualsiasi prezzo liberiamo anche gli assassini, ma vogliamo vedere il nostro soldato. Il problema è che dopodomani rapiranno un altro soldato. E allora il problema Hamas lo dice apertamente che forse c'è bisogno di rapire altre persone per poter fare pressione più grande su Israele, e allora Israele sarà sempre sotto pressione e dovrà fare qualsiasi cosa che Hamas gli richiede. Cioè, la richiesta ultimativa è che Israele dovrebbe tornare, tutti gli israeliani dovrebbero tornare ai paesi di origine, dove lasciare i territori dove vivono adesso in Israele e tornare da dove sono venuti i loro padri e non lo so, nei paesi della diaspora. Ora, tra le reazioni anche in Italia, ovviamente io uso esclusivamente, non è un sondaggio rappresentativo di nulla, però si vede subito anche dai nostri ascoltatori con quale manichea divisione sollecitare un'attenzione sul tema della vita, come anche la questione puramente umanitaria del rispetto della vita, che non dovrebbe essere confuso con le ragioni del conflitto. Invece puntualmente poi ne fa le spese, eppure basta sollevare solo la questione umanitaria per Gilad Shalit da più di 4 anni nelle mani di Hamas, e per la cui liberazione non bastano 1000 indicati da Hamas tra i più efferati responsabili di stragi, che anche da noi la reazione è durissima e si dividono i fronti e le parole diventano acuminate. Voglio solo leggervi senza alcun commento, perché non mi permetto, ovviamente io ho le mie opinioni e si sentono, però sentite tutti che cosa bisogna pensare di un ascoltatore che si firma, c'è il suo cellulare, quindi non è che io lo dica per indicarlo, e però che commenta la vicenda di Gilad Shalit dicendo: dopo la macelleria israeliana di Gaza dell'anno scorso, io, se fossi stato in Hamas, il caporale Shalit l'avrei rispedito in Israele pezzo per pezzo. Giuro che sto leggendo un messaggio di un nostro ascoltatore, al quale non posso dire altro che ho dato voce anche a lui, quindi non credo di poter essere tacciato di essere unilaterale. Personalmente io sono sconvolto dal fatto che questa possa essere la reazione, ma non mi nascondo, dopo decenni di osservazione, di commento, di analisi delle vicende di Israele, che questo tipo di reazione sia una reazione forte di cui tenere ben presente, una reazione poi riacuita dopo la vicenda della Marmara, in cui abbiamo tentato di spiegare come chi era su quella nave non era colui, e le sue intenzioni non erano quelle che ha tentato di far passare nei primi 2 giorni successivi all'intervento, che è costato tantissimo a Israele nel sostegno dell'opinione pubblica mondiale, perché in tanti, anche equilibrati di solito nel giudicare le vicende del difficile conflitto tra Israele e i suoi nemici, hanno detto: no, quell'intervento è così sbagliato che fa vedere esattamente il peggio di Israele, gli nega diritto agli occhi dell'opinione pubblica internazionale. Capisco quindi che ci siano anche reazioni come questa, però dopo la macelleria israeliana di Gaza l'anno scorso, se fosse stato Hamas, il caporale Shalit l'avrei rispedito in Israele, maiuscolo, pezzo per pezzo. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando della vicenda di Gilad Shalit, 24 anni, sergente dell'esercito israeliano, da 4 anni e 3 giorni nelle mani di Hamas, di questa lunga trattativa, per il momento ancora non vede Hamas soddisfatta delle offerte del governo di Israele. I parenti di Gilad Shalit sono in marcia alla volta di Gerusalemme con 10.000 altri manifestanti che chiedono al governo di fare l'impossibile per la liberazione di Gilad Shalit, e il governo dice: non possiamo arrivare oltre una certa soglia, visto che troppe centinaia tra i 1000 richiesti sono i responsabili dei più atroci assassini, sono responsabili più di 600 altre vittime israeliane in particolare. Continuiamo nella nostra panoramica dopo aver sentito Yossi Bar, corrispondente in Italia del Ma'ariv, che è il secondo quotidiano italiano, voci invece che sono mobilitate e impegnate per questa causa, chiedendo a tutti di rispettare naturalmente l'equilibrio necessario, perché vedo che le reazioni non sono proprio in linea con quello che mi aspettavo. Ci sono passioni molto forti contro Israele, convinte che i suoi torti siano tali da giustificare anche il fatto che la vita di un suo giovane cittadino valga di più di 1000 rispetto a detenuti in carcere, non certo per violazioni del codice della strada. Sentiamo cosa pensa Giuseppe Massimo Piperno, che è presidente della UGE, Unione Giovanile Ebraica Italiana, di quello che si è fatto, di quello che si può fare, di come è difficile e di quali sono anche le ragioni di chi critica e non si volge dall'altra parte di fronte a una vicenda come quella di Gilad Shalit. Che pensa Piperno? Ma troppo poco si è fatto per portare a casa questo soldato. Roma in primo luogo si è impegnata dandogli la cittadinanza onoraria e facendo diventare a tutti gli effetti un nostro ragazzo. E come prima cosa occorre sensibilizzare la popolazione, che ancora oggi fa molta fatica a comprendere la vicenda di Shalit e comprenderne i dettagli. Spiace constatare che ci siano detenuti di serie A e detenuti di serie B. Spiace constatare che per, ad esempio per Ingrid Betancourt c'è stata una mobilitazione di massa e la stessa non si sta vedendo per Gilad Shalit. Gilad Shalit, che è tenuto da più di 4 anni nelle mani di Hamas e a cui non è consentita la visita da parte della Croce Rossa e non si ha alcuna certezza sulle sue condizioni di salute. E in questo contesto ci stiamo mobilitando e molto di più dovremo fare. Chiediamo un'immediata visita della Croce Rossa alla sua liberazione. Questo sì. Prossime manifestazioni previste qua in Italia? Ma ci stiamo organizzando per luglio, crediamo che l'impegno debba essere un impegno continuato, la sua battaglia non deve essere dimenticata, noi saremo sempre al fianco di Gilad Shalit, ma a fianco di Gilad Shalit perché oggi lui ormai è un simbolo dell'amore della vita per lo Stato di Israele a confronto del terrore di Hamas, uno Stato disposto a dare 1000 prigionieri fra i più sanguinari a fronte della liberazione di un soldato contro il regime terroristico di Hamas che con la violenza si impone sul territorio. Allora sentiamo alcuni ascoltatori, iniziamo con Roberto da Roma. Che ne pensa Roberto della vicenda di Gilad Shalit? Ma guardi, buongiorno, io ho profondo rispetto per i sentimenti dei familiari naturalmente che non possono lasciare indifferenti, però il presupposto di partenza è che Hamas è un gruppo terroristico, non ci si può trattare con questi signori, non c'è poco da fare. Gruppi satelliti anche di Hamas hanno trattenuto prigioniero per oltre 20 anni un pilota israeliano del quale poi non si è più nessuna traccia, sono terroristi, si ricorda l'ultima volta quando Israele, in virtù del principio che nessun soldato mi ha mai abbandonato, liberò diverse centinaia di terroristi di Hamas per recuperare le spoglie dei suoi soldati? Sì. Sono stati ricevuti in Libano come degli eroi nazionali. Questa è gente che in barba a ogni convenzione internazionale tiene sequestrato, non prigioniero, sequestrato un soldato di uno Stato riconosciuto democratico, senza che ci sia neanche uno stato di guerra dichiarato tra i due paesi. Quindi lei non solo comprende la posizione di Netanyahu, ma dice anche oltre, proprio non bisognerebbe trattare, quindi purtroppo a quel punto il rischio è che ovviamente Shalit fa la fine che ha fatto Ron Arad prima di lui, di cui non si sa neanche poi dove è sepolto. Sentiamo l'opinione invece di Marco da Milano. Prego Marco. Sì, buongiorno. Ma io guardi, sono veramente un po' sconcertato da quello che viene, nel senso paragonare i due eventi, il sequestro di una persona e l'embargo verso centinaia di persone civili, tra l'altro, tra cui donne e bambini, a cui viene privato continuamente generi alimentari e medicine. Quindi non so proprio come si fa a paragonare i due eventi e chiedere che ci siano le stesse manifestazioni per un caso o nell'altro. Senza contare che non è che perché Hamas viene considerato terroristico, posso anche essere d'accordo, ma non è che perché l'aggettivo terroristico viene dato o meno a un certo nucleo di persone, queste sono o meno terroristiche, perché anche Israele dal suo punto di vista ha fatto delle azioni terroristiche, come anche ad esempio quando faceva continuamente il coprifuoco di sera in cui praticamente anche a Gaza continuavano a sparare ogni mezz'ora i cannoni. Ecco, io ho provato a vedere una manifestazione, diciamo delle riprese di e sentire i suoni di queste cannonate, voglio vedere un bambino che nasce in questo ambiente se poi non va fuori di cervello, insomma, bisogna veramente che entrambe le parti facciano un esame di coscienza e cerchino di vedere. Ma Marco, io non voglio interpretare chi è intervenuto prima usando l'argomento a Master, però la differenza è tra un paese dove tra mille dibattiti e divisioni comunque si vota, e si vota sotto gli occhi di tutti che la democrazia israeliana è trasparente, la democrazia israeliana fa i processi ai militari, ai politici che hanno fatto la campagna in Libano, arriva a conclusioni che spaccano la società ma che poi ricostruiscono dalle fondamenta ogni volta le basi del consenso, della legge, del diritto, dei fondamenti di che cos'è Israele. Dall'altra parte Hamas, quando ci fu il ritiro, Hamas procedette all'eliminazione fisica di circa 600 quadri dirigenti di Fatah e dell'organizzazione di Abu Mazen, il capo dell'autorità palestinese, e li eliminò fisicamente e prese il controllo politico. Quindi c'è una certa differenza, o no? Almeno secondo me, però questo, mi limito semplicemente a dire questo. Quindi la chiave terroristica, prima ancora che nei rapporti nei confronti di Israele, che sono quelli di forte resistenza, sono contrari all'esistenza di Israele, lo dichiarano, e anche nel come svolge la lotta politica negli ex territori occupati, la cui rappresentanza si è intestata prima che con elezioni. Le elezioni si sono svolte dopo l'eliminazione di centinaia di quadri da parte di Hamas, di quadri palestinesi e dirigenti dell'organizzazione erede, voglio dire, di quella di Arafat. E questo è avvenuto sotto gli occhi del mondo, non è una ragione polemica inventata dai sostenitori di Israele. Sentiamo ancora come la pensa Giancarlo da Torino. Pronto? Dica. Vi lascio spazio perché mi trovo sulle stesse posizioni dell'ascoltatore di prima. Mi meraviglio semplicemente, mi meraviglio della meraviglia del giornalista che dice: ah, ma non ci sono manifestazioni. Sentire questo, purtroppo, da una parte c'è un militare che fa il suo mestiere, dall'altra c'è Hamas, c'è la popolazione civile, c'è tutto quello che si vede sulla televisione, si vede sui giornali. Non vado oltre. No, lei dice è così sproporzionato in sé la vicenda, come potete pensare di equiparare la sofferenza del popolo di Gaza, se capisco bene, no? Ma è questa la cosa, con la condizione di un soldato che comunque è un soldato e quindi se ha la divisa rispetto a un'intera popolazione, che lei dice che non si è invece attribuito una divisa addosso e che paga il prezzo. Capisco bene che è questo l'argomento, Giancarlo? Sto fatto del dire sempre: ma come mai i pacifisti che si muovono? Sì. Ma i pacifisti, come tutti i pacifisti, come tutte queste manifestazioni, sono di parte, quindi è ovvio che si muovono, ma si muovono gli altri. Ma adesso, per l'amor di Dio, non voglio entrare su questo caso, ma quando sento quella frase: ma nessuno si muove, ma si muova chi sente determinate cose, non può pretendere che certo. Si muova perché deve muoversi a tutti i costi. No, io se non la sente, non la sente. Yossi Bar diceva semplicemente: ecco, questa causa non è sentita, cioè, ma non è sentita per la sproporzione di divisione che c'è. Certo. Grazie a Giancarlo. Murad da Milano. Murad. Sì, pronto. Come la pensa della vicenda di Gilad Shalit? Allora, io mi presento, sono arabo, mamma palestinese tunisino, ma con tutto quello che soffre la gente di Gaza vorrei unire tutto il senso di compassione al ragazzo soldato, e vorrei tanto vedere tanta gente che si unisce per consolidare questa idea di liberare questo ragazzo. Ma allo stesso modo vorrei vedere la stessa gente che si presenta, che manifesta per i diritti dell'essere umano, del non vedere le persone che soffrono, alla voce di coloro che stanno cercando di aiutare dei bambini che non hanno l'antibiotico per curare il mal di gola. Solo questo, non ci sono nessuno che si muove affinché passasse dell'antibiotico a dei bambini dentro una città che tutto il mondo un certo giorno ha detto che questo è un paese palestinese, gli diamo l'autonomia, gli diamo la democrazia, gli diamo al voto, hanno votato, hanno scelto la loro gente, hanno scelto la loro rappresentazione. A un certo punto ci sono stati dei conflitti interni, sono cavoli loro, se la gestiscono loro. Beh, sì, anche sia il problema Murad abbia pazienza, sì. Abbia pazienza. Quando i militari cileni guidati da Allende con i carri armati e gli aerei spianarono il palazzo presidenziale del Cile, il mondo insorse. Non è che potevamo considerarlo affari loro interni cileni, capisce? Cioè, non è che quando tra paesi del patto di Varsavia l'Unione Sovietica aveva la bella abitudine ogni tanto di mandare alcune divisioni corazzate in visita ai paesi satelliti che pensavano di poter interpretare autonomamente la propria linea. Certo, anche allora il mondo dovette prendere atto che erano loro affari interni, però non era una bella cosa. Se lei mi dice che eliminarsi armi alla mano per la rappresentanza palestinese sono affari loro interni e cavoli loro, è un modo un po' singolare, perché nei paesi occidentali chi fa una cosa simile viene considerato un nemico dell'umanità di solito. Però Murad, io capisco benissimo, lei ha comunque preceduto le sue osservazioni dicendo per Gilad Shalit non solo solidarietà, ma muoviamoci tutti, perché non c'è differenza tra i detenuti, i sequestrati da una parte e dall'altra, e io di questo ringrazio. Chiedo a Yossi Bar: ma è vero che il blocco di Gaza significa anche medicine essenziali che non passano per la popolazione civile, beni alimentari essenziali senza di cui c'è la fame per donne e bambini a Gaza? È vero o no? Come funziona? Ma assolutamente, a mio avviso, non è vero, perché se succedeva una questione del genere eravamo presenti a decine di morti ogni giorno nel territorio di Gaza. Noi non sentiamo solamente atti terroristici. Israele bombarda Gaza per cercare di beccare qualche terrorista che ha sparato dei missili verso Israele, ma non è che sentiamo che la gente muoia di fame non ce l'ha, e dei farmaci muoiono nei ospedali i bambini. Ci sentiamo dei casi singoli, ma se succedeva questo fatto che non hanno dei beni di prima necessità oppure farmaci, ma si figuri, in una popolazione di 1,5 milioni di cittadini morivano ogni giorno centinaia di persone. E questo non lo sentiamo. Com'è possibile? Tutto il mondo, non so, parla di questa sofferenza, e sicuramente stanno un popolo che viene controllato da un altro popolo, sì non sta molto bene, ma io non penso che Israele sta affamando un altro popolo e non gli dà i beni di prima necessità, altrimenti non lo so, li poteva Israele di fermare. C'erano già dei progetti di fermare la luce, l'acqua, non dare i farmaci, allora sì, c'era un genocidio. Ecco, io ricordo a chi in ascolto che la cosiddetta sedicente flottiglia pacifista di cui faceva parte la Marmaras, cui poi intervennero le forze speciali di Israele, che asseriva di avere a bordo ovviamente anche in quel caso farmaci, beni alimentari di prima necessità da portare a Gaza, le autorità israeliane dissero: benissimo, se si tratta di questo venite al porto di Ashdod e fateci vedere, e come tutti gli altri carichi di farmaci e di beni alimentari che ogni giorno passano la frontiera tra Israele e Gaza, dopo accurate ispezioni procederemo noi all'inoltro. Fu il no a questa richiesta delle autorità israeliane e la sfida poi al blocco a determinare quello che determinò, sia pure in quella reazione che, condotta in quel modo, ha portato Israele automaticamente agli occhi di tanti dalla parte del torto. Eccoci, siamo tornati in studio, ci stiamo occupando della vicenda di Gilad Shalit. Da più di 4 anni nelle mani di Hamas, non bastano 1,000 detenuti di Hamas liberi per far dire ad Hamas: sì, ve lo restituiamo. E naturalmente le reazioni a questo, alle diverse sensibilità per le mobilitazioni, le verità e le falsità che girano sugli effetti del blocco israeliano a Gaza, ci stiamo occupando un pochino di tutto questo. Sentiamo l'opinione su come e perché queste sensibilità restano ispirate a due pesi e due misure da parte di Luigi Compagna, senatore del PDL. Grazie senatore di essere con noi. Buongiorno. Ma farei questa considerazione: in questi giorni credo che nelle carceri di Israele siano reclusi molti militanti di Hamas, autori o imputati di crimini efferatissimi. Benissimo, questi prigionieri sono visitabili dalla Croce Rossa internazionale, mentre invece, e qui torno a 2 giorni prima del tragico eccidio della nave di Marmara nelle acque di Gaza, due giorni prima di arrivare in quelle acque, il padre del caporale Gilad Shalit chiese a quei pacifisti, fra virgolette, che se avevano effettivamente intenzioni pacifiche non avrebbero avuto difficoltà a portare un appello a far visitare Gilad Shalit dalla Croce Rossa. Fu respinta anche con modo truce e abbastanza odioso. Quindi restringerei la questione, non parlerei il mondo, l'opinione pubblica, le masse, eccetera, eccetera. Ho l'impressione che il comportamento della Croce Rossa internazionale in questi 4 anni è stato di un'ipocrisia e di una viltà che ha superato ogni immaginazione. Sotto questo profilo, e torno alla tragica sproporzione 1 contro 1000 con la quale si è aperta la trasmissione, è chiaro che è una sproporzione inaccettabile. È chiaro anche però, e qui in me ci sono sentimenti umani, di padre, di nonno, è chiaro che non si può scaricare sul Presidente del Consiglio Netanyahu una decisione così angosciante. È chiaro anche che lo Stato di Israele, per un suo patto di lealtà democratica con la popolazione, col proprio esercito, l'esercito di popolo, come l'Italia era nella concezione mazziniana, risorgimentale, debba fare scambi anche sproporzionati. Vediamo le decisioni che prenderà Netanyahu. Mi auguro, non per solidarietà di politica interna, non faccio politica in Israele, eccetera, che almeno le democrazie più responsabili non lasciano solo il governo israeliano in questi drammatici giorni della marcia verso la capitale del papà di Gilad Shalit. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Benedetto da Roma. Sì, buongiorno, buongiorno. Io sono rimasto profondamente toccato dagli ascoltatori che mi hanno preceduto, nel senso che si parlava dei diritti dei palestinesi affamati a Gaza e del fatto che comunque queste persone abbiano in realtà dei diritti che non vengono garantiti, che molto spesso soffrono e non hanno cibo o medicine. Beh, diciamo, questo non è del tutto vero, infatti esistono rapporti sui medicinali e sul cibo che ogni giorno entrano a Gaza attraverso i valichi. Io invece volevo fare un altro ragionamento. Sono assolutamente d'accordo che ciascun popolo abbia diritto all'autodeterminazione, ad un proprio Stato, alla propria libertà. Rendiamoci però conto di una situazione. Israele ha lasciato la striscia di Gaza interamente nel luglio del 2005, con una grossa operazione che ha anche portato grande scontento nel paese. Bene, dal 2005 al 2009 la striscia di Gaza è stato un territorio libero su cui i palestinesi hanno avuto completo controllo. Qual è stato il risultato? Che fino al 2009, fino a zero al novembre, quando è iniziata l'operazione Piombo Fuso, sono cadute sulle città israeliane all'incirca 9.200 razzi, causando danni e feriti e anche morti in certe circostanze. La mia domanda è questa: qual è la vera intenzione di chi sta governando i palestinesi di Gaza? Perché rendiamoci conto che i palestinesi di Gaza sono effettivamente delle vittime, però non è ben chiaro all'opinione pubblica quale sia il vero carnefice di queste vittime, se Israele, così come lo si addita, oppure se sono i veri e propri terroristi di Hamas che, oltre a colpire Israele, colpiscono la loro stessa popolazione. Temo che l'obiettivo di Hamas, come quello di Hezbollah e come quello dell'Iran, che se dentro di loro sia semplicemente, come ci aveva detto, ricordato, quello di mandare Israele in mare, cioè di farlo annullarne l'esistenza. Ricordo poi a tutti coloro che sono in ascolto che dietro la vicenda della flottiglia, la Marmara,